America 24 di Mario Platero. How much of that shitty deal did you sell to your clients? Buongiorno da New York, Mario Platero, benvenuti ad America 24, la voce che avete sentito, aggressiva, con qualche parolaccia che vi tradurremo fra poco, se la dicono in congresso degli Stati Uniti, forse potremmo dirla anche qui ad America 24, la voce, dicevo, è di Carl Levin, il capo della sottocommissione inchieste al Senato, che ieri in una giornata drammatica ha messo sotto torchio tutti i grandi manager di Goldman Sachs. Sono state audizioni iniziate in prima mattinata intorno alle 10, alle 11 del mattino e alle 6, 7 di sera continuavano ad andare avanti. Che cosa dice Levin dunque di non esattamente appropriato per il linguaggio che uno si aspetterebbe al Congresso americano, indirizzandosi a Lloyd Blankfein, amministratore delegato di Goldman Sachs? Gli dice: quanto di questo affare di merda avete venduto ai vostri clienti? Potete immaginare la reazione di Blankfein. Our clients' trust is not only important to us, it's essential to us. In questo caso, devo dire, occorre dare atto all'amministratore delegato di Goldman Sachs di aver mantenuto il sangue freddo nel corso della giornata. La banca è stata strapazzata, a dir poco, dai vari senatori che hanno usato epiteti nei confronti delle attività di Goldman Sachs e soprattutto di quell'operazione immobiliare in cui si vendevano certi prodotti finanziari ai clienti per poi specularci contro attraverso degli altri strumenti. Ricordiamolo, questa operazione è finita nel mirino della SEC, c'è un'accusa di truffa che sarà affrontata in un processo in tribunale. Adesso le nuove accuse dalla Commissione Senato. Blankfein ha risposto difendendosi, ha detto: la fiducia dei nostri clienti non è importante per noi, è essenziale. Per questo abbiamo successo e per questo lo abbiamo avuto per oltre 140 anni. Dunque la posizione di Goldman è chiara: numero uno, non è stata commessa alcuna truffa; numero due, non sono stati trattati male i clienti; numero tre, la banca non ha fatto profitti così importanti come i legislatori pensano. Perché non rispondi? Rispondi sì o no? Di nuovo una domanda aggressiva di Levin. L'atmosfera ieri in congresso era un'atmosfera alquanto carica di tensione, un'atmosfera drammatica, i toni non sono stati leggeri. Vi cito ad esempio delle altre dichiarazioni di Susan Collins, un senatore repubblicano del Maine. Avete gettato benzina sul fuoco dell'avidità, ha detto la Collins. Troppo tardi ci siamo accorti di quanto tutto nel comparto finanziario fosse tragicamente collegato e vulnerabile per la mancanza di controlli di cui avete approfittato, contribuendo a un crollo devastante le cui rovine sono cadute sull'economia nel suo insieme. Dunque i senatori, vi ho dato soltanto un paio di esempi, ma potrei darvene altri 10, 15, 20, perché si è parlato tutto il giorno, hanno quasi fatto a gara a vedere chi riusciva a insultare di più Goldman Sachs, al punto che quasi Goldman Sachs ha fatto un po' pena. Questa banca che in passato ha peccato di arroganza, ecco, è apparsa invece un po' sotto tono. La difesa di fondo, ripeto, è quella di non aver compiuto nessuna violazione particolare. Sentiamo la voce di Fabrice Tour, il manager che organizzò i pacchetti Abacus. Mr. Chairman, the last week has been challenging for me and my family as I have been the target of unfounded attacks on my character and motives. Tour ha fatto un paio di rivelazioni, ha detto di aver conferito con il fondo H, di aver rivelato loro che il promotore dell'operazione era il fondo Hedge Olson e che dunque tutti sapevano tutti. Non è vero quel che dice la Security Exchange Commission, cioè che Goldman ha mantenuto il segreto, non ha informato i suoi clienti di chi c'era dietro questa operazione. Tutto è stato detto e chiarito, è colpa di H se non sono state compiute delle ulteriori indagini. Prima linea di difesa, seconda linea di difesa: Goldman Sachs ha perso da questi investimenti. Terza linea di difesa: le operazioni sono cominciate soltanto nel 2019. 2007. Ma ecco le sorprese in serbo da parte della Commissione. Devo dirvi, seguire questa audizione era un po' come seguire un processo di Perry Mason, un vero succedersi di colpi di scena. E dunque interviene Carl Levin e dice che, uno, non è vero che Goldman Sachs ha perso. Sì, è vero, ha perso 100 milioni di dollari nell'investimento Abacus che ha fatto con il fondo Paulson, ma complessivamente, prima rivelazione, la banca ha guadagnato 3,7 miliardi di dollari dalle operazioni nel settore immobiliare. Seconda rivelazione, non è vero che le operazioni sono cominciate nel 2007, ma si è cominciato a lavorare a queste operazioni contro il settore immobiliare già nel 2006, in un incontro molto specifico in cui la banca ha cambiato radicalmente la sua strategia. Ecco, davanti a queste rivelazioni Goldman Sachs ha cercato di difendersi, un capitolo che si è chiuso dunque in una giornata drammatica per Wall Street, perché con le notizie che giungevano dalla Grecia, il downgrade di Standard & Poor's, ricordiamolo, la grande agenzia di credito americana che ha abbassato la valutazione del credito della Grecia al junk bond, all'obbligazione spazzatura, la borsa ha perso quasi il 2%, 213 punti per il Dow Jones, che è sceso sotto quota 11.000. Una giornata nell'insieme molto tesa. Ultimo elemento, una raccomandazione del governatore della Federal Reserve, Ben Bernanke, a lavorare sul debito, altrimenti il rischio è che anche l'America si troverà in gravi difficoltà. Inter Amala è sceso in campo nel contenzioso tra tifosi e Ballotelli, niente di meno che il Wall Street Journal. Il giocatore italiano è dunque sbarcato in America. Ci si occupa del problema nato tra il giocatore e i tifosi in questo giornale, tra l'altro gemello al nostro, gemello al Sole 24 Ore, con grande attenzione. Cosa dice il quotidiano? Beh, intanto prende in qualche modo le difese di Mario, spera che riesca a trovare la serenità all'interno della squadra, che possa tornare a macinare gol, perché questa dovrebbe essere la tipica tempesta che si risolve in un bicchiere d'acqua. E poi osserva tutto ciò che riguarda Mario in fondo, dal suo modo di vestire al suo accento, è uno stereotipo italiano. E poi perdoniamolo, perché è semplicemente un adolescente molto competitivo, spinto troppo presto sotto i riflettori dal suo dono naturale, le cui sbruffonate troppo spesso si tramutano in carenza di disciplina e in cattive decisioni. Niente che non si possa curare crescendo. Un augurio positivo dunque anche all'Inter, che questa sera si confronta con il Barcellona per la semifinale dei Champions. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ma eccoci alla canzone del giorno. È finalmente partito dal Festival del Jazz di New Orleans l'atteso tour di Simon e Garfunkel negli Stati Uniti. Un duo, devo ammettere, che ha un posto speciale nel mio cuore. Adoro le loro canzoni e dunque hanno suonato un po' di tutto: Mrs. Robinson, Celia, The Boxer, Scarborough Fair. Ma siamo in tempi di turbolenza, abbiamo visto, come vi dicevo prima, quel che è successo in Grecia, quel che è successo in borsa, e dunque in questi tempi di acque turbolente vi farò sentire di Simon & Garfunkel Bridge Over Troubled Water, un ponte su acque turbolente. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!